ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. Passò l'estate e la prima parte dell'autunno. Si era dopo San Michele, ma quell'anno il raccolto era tardivo. Il signor Linton e sua figlia andavano spesso a passeggiare tra i mietitori e quando fu tempo di portare via gli ultimi covoni si fermarono fino al crepuscolo e siccome era una serata fredda e umida il mio padrone si prese un brutto raffreddore e i suoi polmoni ne risentirono. Fu costretto a rimanere in casa per tutto l'inverno. La povera Cathy, costretta dal timore di rinunciare alla sua avventuretta, era diventata molto più triste e apatica. Suo padre insisteva perché leggesse di meno e si muovesse di più, ma lui non era più in grado di accompagnarla. Perciò ritenni mio dovere prendere, per quanto possibile, il suo posto. Una sostituta inefficace, perché le mie numerose occupazioni durante il giorno non mi permettevano che 2 o 3 ore di libertà per andare a spasso con lei, e poi, per lei, ero indubbiamente una compagnia meno piacevole di suo padre. Un pomeriggio di ottobre o dei primi di novembre, un pomeriggio fresco e acquoso, con le foglie appassite e umide che frusciavano sul terreno erboso e lungo i sentieri, e il cielo freddo e azzurro, per metà coperto dalle nubi che salivano da ovest e annunciavano piogge in abbondanza, chiesi alla mia padroncina di rinunciare alla sua passeggiata, perché ero certa che sarebbe piovuto. Rifiutò e io indossai controvoglia un mantello e presi l'ombrello per accompagnarla fino all'estremità del parco, un percorso fisso che seguiva quando era giù di morale e lo era sempre da quando il signor Edgar stava peggio del solito. Non era certo lui a dircelo, ma lo capivamo dal suo contegno ancora più silenzioso e dal suo aspetto malinconico. Lei camminava tristemente. Né corse né salti adesso, anche se il vento gelido avrebbe potuto incoraggiarla a correre. Spesso, con la coda dell'occhio, la vedevo portarsi una mano al viso e asciugarsi qualcosa sulla guancia. Mi guardai attorno, cercando un pretesto per distrarla. Da un lato della strada c'era un argine alto e scosceso, a cui si aggrappavano noccioli e querce contorte con le radici mezze scoperte. Il terreno non era abbastanza compatto per offrire un solido appiglio e alcuni alberi erano inclinati quasi orizzontalmente a causa dei forti venti. D'estate la signorina Catherine si divertiva moltissimo ad arrampicarsi sui tronchi e a sedersi tra i rami, dondolandosi a 6 metri dal suolo. E a me faceva piacere vederla così agile e così infantilmente felice, anche se ritenevo pur sempre doveroso sgridarla ogni volta che la coglievo lassù, in alto, ma in modo tale che lei sapeva che non era necessario scendere. Dall'ora di pranzo a quella del tè se ne stava a farsi cullare dal vento, senza fare nulla se non cantare tra sé vecchie canzoni, quelle che le avevo insegnato quando era bambina, o guardare gli uccelli suoi vicini di casa mentre nutrivano i loro piccoli o gli insegnavano a volare, o ancora se ne restava quieta ad occhi chiusi, pensosa e sognante, più felice di quanto si possa dire. «Guardi, signorina!» esclamai, indicando una nicchia tra le radici di un albero incurvato. «Non è ancora inverno! C'è un fiorellino lassù, l'ultimo bocciolo di una moltitudine di campanule che in luglio copriva anche le zolle di questa sponda, come una nebbia viola. Perché non si arrampica a raccoglierlo per mostrarlo a papà?» Cathy fissò a lungo il fiore solitario che tremava fra le pareti del suo rifugio e alla fine rispose: «No, non voglio toccarlo. Ma non ti sembra triste, Ellen?» «Sì», osservai, «sembra infreddolito e abbattuto come lei. Ma è pallidissima. Su, mi dia la mano e facciamo una corsa.» «No», ripeté, e riprese a camminare lentamente, fermandosi di tanto in tanto a contemplare una zolla muschiosa o un ciuffo d'erba ingiallita o un fungo che si affacciava con il suo brillante arancione tra le foglie secche. E ancora si portava la mano al viso che mi teneva nascosto. «Catherine, tesoro, perché piange?» chiesi avvicinandomi e posando il braccio sulla sua spalla. «Non deve piangere perché papà è raffreddato. Deve essere contenta che non è niente di peggio». Allora smise di trattenere le lacrime e il suo respiro fu soffocato dai singhiozzi. «Vedrai che sarà proprio qualcosa di peggio», disse. «E io che cosa farò quando tu e papà mi lascerete e sarò sola? Non riesco a dimenticare le tue parole, Ellen. Ce le ho sempre nell'orecchio. Come sarà diversa la vita, come sarà desolato il mondo quando tu e papà sarete morti. Ma non si sa mai, lei potrebbe morire prima di noi», ribattei. «Non bisogna anticipare le disgrazie. Speriamo di avere ancora molti anni davanti, prima che qualcuno di noi debba andarsene. Il padrone è giovane e io sono forte e non ho ancora 45 anni. Mia madre è vissuta fino a 80 anni, una donna in gamba fino all'ultimo. E supponendo che il signor Linton viva fino a 60 anni, sarebbe molto più di quello che lei pensa, signorina. E non sarebbe stupido piangere una tragedia con oltre 20 anni di anticipo?» «Ma la zia Isabella era più giovane di papà», osservò lei alzando gli occhi, nella timida speranza di trovare rassicurazione. «La zia Isabella non aveva lei e me a curarla», risposi. «Non era felice come il padrone e non aveva altrettanti motivi per vivere. Tutto quello che deve fare lei è prendersi cura di suo padre, farlo contento mostrandosi contenta ed evitargli qualunque motivo di ansia. Se ne ricordi, Cati, non voglio nasconderle che potrebbe ucciderlo se fosse tanto sventata e imprudente da cedere alle infatuazioni per il figlio di uno che sarebbe felice di vedere il signor Linton nella tomba, o se lasciasse trapelare che si sta consumando per una separazione che lui ha deciso per ottimi motivi. Io non mi sto consumando per nulla al mondo, tranne che per la malattia di papà», rispose. «Non c'è niente che mi importi quanto lui. E mai, mai, giuro che mai, finché sarò padrona di me stessa, farò un gesto o dirò una parola che possa contrariarlo. Voglio più bene a lui che a me stessa, Ellen, e me ne rendo conto da questo. Prego ogni notte di sopravvivergli, perché preferisco essere io a soffrire piuttosto che lui. Questa è la prova che voglio più bene a lui che a me stessa». «Sono belle parole», replicai, «ma bisogna metterle in pratica, e quando lui sarà guarito, lei non dimentichi i buoni propositi formulati quando temeva per la sua vita». Mentre parlavamo, raggiungemmo un cancello che si apriva sulla strada. La mia padroncina, di nuovo rasserenata, si arrampicò e si sedette in cima al muro, sporgendosi a cogliere qualche bacca di rosa canina che rosseggiava sui rami più alti dei rampicanti. In basso le bacche erano già sparite, ma solo gli uccelli o Cati, dal punto in cui stava adesso, potevano raggiungere le più alte. Nell'allungarsi per prenderle, le cadde il cappello e, dal momento che la porta era chiusa, mi disse che sarebbe scesa direttamente dal muro per riprenderlo. Le raccomandai di essere prudente e di non cadere, e lei sparì. Ma tornare indietro non era così facile. Le pietre erano lisce e ben cementate, e i cespugli di rose selvatiche e di more rampicanti non le offrivano nessun supporto per risalire. Io stupidamente non me ne ricordai finché non la sentii ridere ed esclamare: «Ellen, devi andare a prendere la chiave, oppure dovrò fare una corsa fino alla casa del guardiano. Non riesco a risalire la muraglia da questa parte». «Rimanga dov'è», risposi. «Ho il mio mazzo di chiavi in tasca. Forse riesco ad aprire, altrimenti andrò io». Catherine si divertì a saltellare su e giù davanti alla porta, mentre io provavo le grosse chiavi una dopo l'altra. Quando ebbi tentato con l'ultima e scoperto che nessuno andava bene, le ripetei ancora di stare ferma lì e stavo per correre a casa più in fretta che potevo, quando un rumore che si avvicinava mi trattenne. Era il trotto di un cavallo. Cathy si fermò e dopo un attimo anche il cavallo. «Chi è?» sussurrai. «Ellen, vorrei che aprissi la porta», rispose con un sussurro la mia compagna, con ansia. «Signorina Linton», disse una voce profonda, quella dell'uomo a cavallo, «felice di incontrarti. Non avere fretta di entrare, perché devo chiedere e ottenere una spiegazione da te». «Non voglio parlare con lei, signor Heathcliff», rispose Catherine. «Papà dice che lei è un uomo perfido e che odia sia me che lui. E anche Ellen lo dice». «Questo non c'entra affatto», rispose Heathcliff. «Era proprio lui. Io non odio mio figlio ed è di lui che voglio parlarti». «Sì, arrossisci pure. Non avevi preso l'abitudine di scrivere a Linton 2 o 3 mesi fa? Giocavate agli innamorati, vero? Vi sareste meritati una bella lezione, tutti e due, ma specialmente tu, che sei la maggiore, e hai dimostrato di essere anche la più insensibile. Ho le tue lettere, e se fai l'impertinente con me, le manderò a tuo padre. Immagino che ti sei stancata di quel passatempo e l'hai interrotto, non è così? Beh, hai lasciato anche cadere Linton nell'abisso della disperazione. Lui faceva sul serio, era davvero innamorato. Com'è vero che sono vivo, sta morendo per te. La tua incostanza gli sta spezzando il cuore. Nonostante Ayrton lo abbia preso in giro per 6 settimane e che io abbia adottato provvedimenti ben più severi per cercare di farlo rinsavire con le cattive, peggiora di giorno in giorno e sarà sottoterra prima dell'estate, se non lo salvi tu. «Come può mentire così spudoratamente a questa povera bambina?» gridai io da dentro. «La prego di andarsene. Ma come può mettere insieme menzogne così miserabili? Signorina Cathy, ora rompo la serratura con una pietra. Non vorrà credere a queste infami stupidaggini. Lo capisce benissimo da sola. È impossibile che una persona muoia per amore di una sconosciuta». «Non sapevo che ci fosse qualcuno nascosto lì dietro», brontolò il mascalzone vedendosi scoperto. «Mia degna signora Dean, tu mi piaci, ma non mi piace il tuo doppio gioco», aggiunse ad alta voce. «Come puoi mentire così sfacciatamente, affermando che io odio questa povera bambina, e inventare storie di spauracchi per spaventarla e tenerla lontana da casa mia? Catherine Linton, e basta il tuo nome a intenerirmi. Mia cara ragazza, starò via per una settimana. Va a vedere di persona se non ho detto la verità. Fallo, su, da brava. Ti giuro sulla salvezza della mia anima che Linton sta morendo e che solo tu puoi salvarlo». La serratura cedette ed io uscii. «Giuro che Linton sta morendo», ripeté Heathcliff, guardandomi duramente. «Il dolore e la delusione stanno affrettando la sua morte. Nelly, se non vuoi lasciarla andare, vacci tu stessa. Io non sarò di ritorno che tra una settimana. E non credo che il tuo padrone avrebbe da ridire se sua figlia facesse visita al cugino». «Venga», dissi prendendo Cathy per un braccio e tirandola dentro a forza, perché lei esitava, osservando con occhi turbati i lineamenti di Heathcliff, troppo induriti per lasciar trapelare il suo intimo inganno. Lui fece avanzare il cavallo, si chinò verso di noi e aggiunse: «Signorina Catherine, ammetto che non ho troppa pazienza con Linton. Ayrton e Joseph ne hanno ancora di meno. Ammetto che si trova in mezzo a gente dura. Si strugge per un po' di tenerezza, per un po' d'amore. Una tua parola gentile sarebbe la sua migliore medicina. Non essere crudele come vorrebbe la signora Dean. Sii generosa. Fai in modo di andarlo a trovare. Lui ti sogna giorno e notte e dal momento che non ti fai vedere e non scrivi, si è convinto che lo odi e non si riesce a dissuaderlo». Io chiusi la porta e la fermai con una pietra, visto che la serratura era rotta. Aprii l'ombrello e vi tirai sotto Catherine perché la pioggia cominciava a passare attraverso i rami e ci ammoniva a non tardare oltre. Il nostro ritorno precipitoso verso casa ci impedì di fare commenti sull'incontro con Heathcliff, ma istintivamente capii che un'altra ombra, ormai, pesava sul cuore di Catherine. Aveva una tale tristezza in volto da non sembrare più lei. Era evidente che prendeva per vera ogni sillaba che aveva sentito. Il padrone si era ritirato prima del nostro ritorno. Cathy andò in punta di piedi in camera sua per vedere come stava, ma si era addormentato. Tornò e mi chiese di tenerle compagnia in biblioteca. Prendemmo il tè, poi si distese sul tappeto e mi disse di non parlare perché era stanca. Presi un libro e feci finta di leggere. Non appena mi credette assorta nella lettura, ricominciò a piangere silenziosamente. Sembrava che questo ormai fosse il suo passatempo preferito. Lasciai che ci si divertisse per un po', poi cercai di farla ragionare. Misi in ridicolo quello che il signor Heathcliff aveva detto a suo figlio e parlai come se fossi sicura che lei la pensasse allo stesso modo. Ahimè, signor Lockwood, non avevo abbastanza capacità di persuasione per controbattere le parole di Heathcliff e cancellarne l'effetto. Le cose stavano andando secondo i suoi piani. «Può darsi che tu abbia ragione, Ellen», mi rispose Cathy, «ma non sarò mai più tranquilla finché non saprò la verità. E devo dire a Linton che non è per colpa mia se non scrivo, e per convincerlo che i miei sentimenti sono e resteranno gli stessi». A che cosa servivano la mia rabbia e le mie proteste? Contro la sua sciocca credulità. Quella sera ci separammo ostili, ma il giorno dopo ero sulla strada per cime tempestose a fianco del pony della mia ostinata padroncina. Non sopportavo di vederla soffrire, di vederla pallida e abbattuta con gli occhi gonfi, e cedetti nella vaga speranza che l'incontro con lo stesso Linton avrebbe dimostrato che la storia dei suoi dolori era del tutto infondata.